Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, subito uno sguardo alle borse che continuano a essere negative, devo dire soprattutto a Milano, meno 2% il MIBTEL, meno 2,1% l'S&P MIB, meno 0,90% Parigi e più 0,36% invece in questo momento l'America, Francoforte quasi invariata, più 0,1%, Londra meno 1,2%. Molto pesante quindi Milano rispetto alle altre borse europee. I motivi, manco a dirlo, si chiamano ancora una volta banche, ma non solo, perché in questo momento la peggiore è Intesa San Paolo, perde il 6%, poi va male anche Unipol che perde il 3,2%, Monte dei Paschi perde il 4,1%, Vibanca il 2,4%. Non vanno male invece il Banco Popolare, che anzi recupera un 3,2%, la Popolare di Milano più 1,3%. Per cento anch'essa. Unicredito oggi un po' più tranquilla, ma molto era calata nelle ultime sedute, quota 1,34 euro, meno 1,6%. Male anche l'automatica, meno 5,8%. Mediaset perde il 5%, l'Espresso il 4,3%, Bulgari il 2,80%, Pirelli pure, Eni 2,5% di calo, e Luxottica il 2,3% come Telecom Italia. Le generali perdono il 2% come Parmalat e Alleanza Assicurazioni e anche Fastweb. Guadagna invece Prismian il 3,7%, Geox l'1,6%, Seat lo 0,90%. Ci occuperemo di banche, ma di nuovo le banche britanniche. Timore oggi, anzi le preoccupazioni si spostano da Royal Bank of Scotland, che ormai di fatto è stata nazionalizzata. Il governo britannico ha già il 58% e arriverà al 70%, ma oggi, dicevo, i timori si sono spostati su un'altra grande banca britannica, mi riferisco a Barclays, che è arrivata a perdere quasi il 20% ed è arrivata anche a perdere più del 20% in alcuni momenti della seduta. Quindi tensione sulle banche britanniche, parleremo poi in breve, perché insomma bisogna stare attenti anche al sovraccarico del piano economico di Obama, le intenzioni, le dichiarazioni. Sullo sfondo ci dovrebbe essere un altro pacchetto da oltre 800 miliardi di dollari, ma insomma quelle che dovrebbero essere le linee guida, per quello che si è capito ieri dal suo primo discorso da presidente, che è stato chiaramente un discorso politico, programmatico, di ideali e non tanto di misure concrete, anche se qualche linea guida l'ha già data. Ancora parleremo di federalismo fiscale, perché oggi ce n'è discusso a livello politico, non ci sono grossissimi elementi nuovi, cioè alcuni nodi restano irrisolti, il fondo perequativo come funzionerà, chi sarà, quale sarà il soggetto che avrà la parte più grossa, diciamo, nell'imposizione fiscale, i comuni o le regioni. Qualche cosa in più invece si sta capendo, e avremo anche alcune previsioni di carattere economico in generale. Tra l'altro oggi proprio su questo è intervenuto il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, il quale ha parlato dei tassi ma soprattutto del fatto che i tassi applicate dalle banche alla clientela non stanno diminuendo come invece è diminuito il costo del denaro, ossia il tasso ufficiale di riferimento. Allora iniziamo subito con le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Mentre il petrolio infatti ha aperto sopra i 41 dollari al barile e l'Euribor è sceso ulteriormente al 2,31%, sia ai minimi dal 9 novembre 2005, non lo diciamo noi, non lo dicono gli ascoltatori, lo dice il presidente della Banca Centrale Europea. Ha detto: i tassi che le banche europee applicano ai clienti, siano essi soggetti giuridici come le società e le imprese, siano essi soggetti fisici come i cittadini che hanno un mutuo, non sono calati tanto quanto i tassi come li abbiamo tagliati noi della Banca Centrale Europea. Sentiamo Trichet. We are looking very very carefully to the Euribor in particular Stiamo osservando molto attentamente l'andamento dell'Euribor e il fatto che ci sia stata una corrispondenza tra le nostre decisioni di politica monetaria e i tassi effettivamente applicati sul mercato. Da questo punto di vista devo dire che abbiamo monitorato nelle ultime settimane l'Euribor a tre mesi e posso affermare che si sta andando nella giusta direzione. Abbiamo visto un progressivo calo dell'Euribor ad un livello vicino al tasso di interesse da noi appena deciso. Ma se da un lato vedo segnali di miglioramento, occorre rimanere molto vigili perché per un certo numero di ragioni notiamo delle esitazioni tra le banche stesse. Invitiamo dunque le banche a tradurre effettivamente i ribassi dei tassi che noi decidiamo. In questo ambito non tutto è stato fatto, ma ripeto, per ciò che riguarda l'Euribor stiamo monitorando molto attentamente. Sono stati compiuti molti progressi che spero continueranno. Però oggi l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, dice i tassi che noi pratichiamo sono in calo, i mutui sono scesi al livello del gennaio 2007, questo per quello che riguarda il mese di dicembre. Secondo il rapporto mensile dell'ABI, i tassi sui mutui sono scesi al 5,08%, ossia i livelli di gennaio 2007. Quelli per le imprese sono calati al 4,7%. E quindi i livelli di aprile 2007. Chi si riconosce in queste cifre, ossia mediamente un 5% per i mutui e un 4,7% per i prestiti alle imprese, ce lo dica, ce lo scriva al 349-238-6666 e anche chi invece si trova su livelli molto diversi. Chiaramente parliamo di tutti quei prestiti variabili, non scrivete se avete un mutuo a tasso fisso. Trichet ha anche spostato al 2010 l'anno della ripresa, il 2009 sarà un anno difficile a livello mondiale ed europeo. Oggi con i dati societari Ericsson nella trimestrale vede crollare l'utile del 31%, un dato peggiore delle attese, maxi riduzione di costi per Ericsson, nuovo taglio di circa 5.000 posti di lavoro, vanno male le vendite di telefonini. E Tiscali conferma il taglio di 250 dipendenti e per ottenere attraverso anche questo risparmi complessivi da 40 milioni di euro. Toyota si conferma, veniamo al settore auto, invece il numero uno al mondo dopo il crollo delle vendite della General Motors, che ha perso così lo scettro di prima casa automobilistica al mondo. E nel frattempo a Detroit anche General Motors sta aspettando entro giorni la seconda tranche di aiuti pubblici, vale 5 miliardi e mezzo di dollari, promessa dal governo. Alcuni dati economici: la Germania nel 2009 dovrebbe fare anche peggio dell'Italia quanto a PIL, meno 2,2%, questa è la stima diffusa oggi dal governo tedesco, con una disoccupazione che salirà dal 7,8 all'8,4%. In Russia la disoccupazione in tre mesi è già salita del 20%. Ufficialmente c'è 1,5 milioni di disoccupati, ma il numero reale, in un paese in cui le informazioni sono una cosa un po' difficile da ottenere, il numero reale è ben più alto. Ancora, il miliardario russo Alexander Lebedev, ex spia del KGB e già proprietario del quotidiano Novaya Gazeta, ha acquistato una quota di maggioranza nel giornale londinese che viene pubblicato il pomeriggio, un classico pomeridiano, Evening Standard, molto conosciuto, che è colpito da una crisi che sta travolgendo tutto il Regno Unito e anche lui. Introiti pubblicitari in caduta libera, competizione con i titoli gratuiti, con i giornali, la Free Press, come si chiama da noi. Insomma, Living Standard se l'hai comprato Lebedev per una sterlina, ha preso infatti con la quota simbolica di una sterlina la quota di maggioranza del quotidiano. L'export italiano, allora, e i dati italiani. Il fatto che vadano male oggi Mediaset, l'Espresso, i titoli legati al mondo dei media si conferma e si spiega anche col fatto che la pubblicità è in calo del 2%, fatica anche internet. In Italia gli investimenti pubblicitari nel periodo gennaio-novembre dell'anno scorso hanno avuto una flessione del 2%, collocandosi a 7 miliardi e 920 milioni di euro. A novembre poi il calo è stato molto molto brusco nella pubblicità, meno 13,4%. Tiene La televisione, meno 0,7% nei primi 11 mesi del 2008. Internet cresce, più 15%, e anche la radio, questo ci fa piacere, più 3%. Dove vanno male gli investimenti pubblicitari? Beh, nella stampa complessivamente meno 6,5%, i quotidiani meno 6,3% e i periodici meno 6,8%. E poi l'export italiano meno 13,3% a novembre, il dato peggiore dal 1991, e purtroppo si stanno avverando le temute tensioni sull'export, il vero motore della nostra crescita in questi anni, di quel poco di crescita che c'è stato. Oggi il dato è brutto, meno 13,5%, ma soprattutto sono calate anche le importazioni, meno 10,7%. Però sono calate di più le esportazioni, tant'è che il saldo è negativo per 1 miliardo di euro. Il dato è tra l'altro il peggiore quanto a export dal 1991, e sono calate soprattutto le esportazioni verso i paesi europei. La frenata è dovuta al fatto che la Germania, la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna siano in estrema difficoltà, meno 16%. Male anche in Russia, meno 19%, in Cina invece le nostre esportazioni tengono, meno 1%, in America meno 7%, in Giappone meno 1,4%, ma insomma i dati più brutti sono, oltre alla Russia, in Europa. In Gran Bretagna abbiamo esportato a novembre un meno 20% rispetto all'anno prima, in Spagna un meno 27%, in Francia un meno 15% e in Germania un meno 11%. Pesante il calo soprattutto sui mezzi di trasporto, meno 25%, ma purtroppo anche il tessile ha fatto un meno 13%, mobili meno 11%, meccanica meno 8%, chimica meno 21%, elettronica meno 8,5%, calzature meno 6,7%. Allora, del federalismo fiscale, visto che oggi se ne è parlato all'Aula del Senato, ne ha parlato il ministro Tremonti, ma anche l'opposizione, avremo questo tema nella seconda ora del programma. Adesso l'ultima notizia prima di passare al tema di apertura, come sta andando la situazione nelle banche, in particolar modo in quelle britanniche, riguarda la riforma del modello contrattuale, il tavolo sul modello contrattuale. Ne abbiamo parlato molte volte. La Confindustria chiede una riforma del modello contrattuale che vada verso due tipi di contratto: quello nazionale generale, il contratto quadro, e poi il contratto di carattere aziendale, il cosiddetto secondo livello, per dare maggiore possibilità alle imprese, in base alla loro produttività e ai loro utili, di fare i contratti. Su questo c'è un'apertura di CISL e UIL, non della CGIL, e il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha chiesto oggi alla CGIL di ripensarci. Noi abbiamo sempre detto, abbiamo fatto il possibile per riportare la CGIL al tavolo, abbiamo, come aveva chiesto Epifani, allargato il tavolo a tutte le associazioni di categoria datoriali, quindi Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, tutte condividono questo disegno. A questo punto io mi auguro che ci possa essere un ripensamento anche all'ultimo momento. Se non ci sarà, vorrà dire che tutto il mondo del lavoro, delle associazioni di categoria datoriali e tutti i sindacati sono d'accordo. Allora, la risposta del segretario della CGIL Guglielmo Epifani ha detto: occuparsi in questi giorni della riforma del sistema contrattuale non ha senso. Ci direbbero, se andassimo da un lavoratore a dirgli che abbiamo firmato l'accordo, ci direbbero che siamo matti. E poi, rivolto al governo, ha detto la CGIL: senza risposte immediate per affrontare la crisi faremo una grande manifestazione nazionale, con ogni probabilità il 4 aprile. Ripeto, di federalismo parleremo dopo. Vedo già molti messaggi di mutui diversi dalla media che ha fornito oggi l'ABI, anche se alcuni segnalano per esempio una rata in calo da gennaio 4,7 a febbraio 3,7, altri invece hanno mutui nettamente più alti, mutuo a 20 anni, tasso variabile, il tasso è al 6,13% per la prima casa. Vabbè, lì bisognerebbe chiedere spiegazioni anche alla banca. Restiamo in tema di banche, ma per capire quanto lunga è la nottata delle banche inglesi. Allora, in un paese che veniva indicato come il modello in Europa, perché molto finanziarizzato, con molti servizi, con la grande rinascita, la Swinging London di Tony Blair, la terza via, il modello britannico, per carità, tutto questo non è che si butti via. Però forse c'era un po' troppa finanza, forse c'erano un po' troppi servizi, forse, anzi, sicuramente la Gran Bretagna è, con la Germania e anche in parte con la Spagna, il paese dove la crisi sta colpendo in maniera più dura. Ma mentre in Germania, la Germania può contare su un apparato industriale fenomenale, la seconda economia da questo punto di vista al mondo, la Gran Bretagna no, e quindi la crisi finanziaria, la crisi delle banche va a colpire il settore principale dell'economia britannica. E non è un caso che continui ad aumentare la disoccupazione in Gran Bretagna. A dicembre il livello è stato il più alto dal gennaio del 2000, 1.160.000 persone che ricevono il sussidio di disoccupazione. E poi ricordo il piano, perché insomma il nuovo piano di Gordon Brown, dopo quello da 37 miliardi di ottobre, 41 miliardi di euro per la precisione di ottobre, prevede un insieme di cose, che la Banca d'Inghilterra abbia 50 miliardi di sterline, 55 miliardi di euro in dotazione per acquistare tutti gli asset a rischio e aumentare la massa monetaria, prestare soldi alle banche, e poi potrà anche comprare società del paese, la Bank of England. In aggiunta viene esteso tutto il sistema bancario, le garanzie sul credito, per cui 250 miliardi di sterline. Le garanzie riguarderanno anche la concessione di mutui, finanziamenti societari e personali, e poi le banche potranno, trovati questi prodotti tossici, darli, in qualche modo isolarli, e il governo assicurerà in cambio una commissione, ma li tutelerà. Oggi di nuovo buriana, non su Royal Bank of Scotland ma su Barclays. Barclays è arrivata a perdere fino al 35%. E allora di nuovo Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Gran Bretagna. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. L'impressione, come va la sterlina, chiedono gli ascoltatori. Avete ragione, 94, quindi è in indebolimento, 94 pence. Un euro vale 94 pence, quindi torniamo a essere vicini a quota 1,1. Però, Leonardo, la sensazione è che nonostante il piano britannico, enorme, immenso, il più grosso in Europa, soprattutto per le banche, che garantisce tutti i mutui, i prestiti, che nazionalizza di fatto la Royal Bank of Scotland, che apre la strada alla Banca d'Inghilterra per stampare moneta, nonostante questo, cioè, la crisi si sposta, cioè, è come la caccia grossa. Prima becchi Royal Bank of Scotland, distrutto il valore della Bank of Scotland che ormai appartiene allo Stato, ti sposti su Barclays, e oggi Barclays perde il 35%, è arrivata a perdere fino al 35%. Sì, bisogna dire che Barclays è l'unica banca che non ha partecipato alla prima operazione, al primo pacchetto di salvataggio bancario che aveva messo in piedi il governo Brown. Su Barclays già la settimana scorsa aveva perso il 40%, e c'erano voci che potesse avere dei problemi non del tutto dissimili da quelli di Royal Bank of Scotland, anche se Royal Bank of Scotland è una realtà particolare, perché come abbiamo visto anche nei giorni scorsi è stata proprio l'operazione ABN AMRO che è quella che l'ha poi più affossata, zavorrata di titoli tossici, eccetera. Il problema del sistema bancario inglese è che ormai è alla vigilia di quella che sembra, così, voglio dire, da quelli che sono molti più di rumors, di una nazionalizzazione, perché Royal Bank of Scotland è di fatto al 70%, quindi è nazionalizzata. Lloyds Group, che è già la fusione tra HBOS e Lloyds TSB, ha una partecipazione elevatissima dello Stato, cioè siamo a un continuo rincorrere una situazione che è inafferrabile. Come dicevi giustamente tu, adesso c'è una ricaduta sull'occupazione, come non si era vista negli ultimi 10 anni. La realtà è che è tutto il sistema che sta entrando in fibrillazione. Sta entrando in fibrillazione un sistema che era eccentrico rispetto allo sviluppo dell'Europa continentale, perché era fortemente incentrato sui servizi finanziari e aveva avuto, come dire, questa relativa supponenza di lasciare altri settori del paese, manifatturiero in primis, anche se questo è un grande dibattito che ha diverse scuole di pensiero, lasciarlo un po' ai margini. Quello che sta pagando adesso è quel settore lì, cioè quello poi anche dell'occupazione nel manifatturiero, perché la mancanza di liquidità nel sistema non vengono rinnovati i fidi, se c'è il rischio che non vengano rinnovate le linee di credito, molte società rischiano di saltare. Sì, tra l'altro, l'attenzione sulle banche è proprio non tanto per salvare le banche in questa seconda fase, ma per rimettere liquidità nel sistema. Per salvare il sistema più che le banche è complessivo. Tra l'altro, la Gran Bretagna, oltre che sulla grande finanziarizzazione dell'economia, si era basata anche su una crescita dei prezzi degli immobili, soprattutto a Londra, ma non solo, che è l'altro elemento di forza e debolezza. Leonardo Maesano, voglio dire, lo dico agli ascoltatori, immaginiamo cosa sarebbe in Italia una operazione che portasse a nazionalizzare le banche, cioè Unicredit con l'ingresso dello Stato, Intesa con l'ingresso dello Stato, UbiBanca, Banco Popolare. Saremmo di fronte a un evento epocale, torneremo a un livello, diciamo, precedente all'inizio degli anni 90, quando c'erano le banche partecipate dallo Stato, e questa sarebbe l'Italia. Immaginatevi in Inghilterra, dove lo Stato, sì, non è come in America, però è patria anche della libera impresa economica e finanziaria, per cui lo Stato dentro le banche non si vedeva da veramente decenni. Ti farei ascoltare il giudizio su questa crisi, compreso anche la parte britannica, dell'economista francese Jacques Attali. Oggi è intervenuto a Roma a margine di un convegno, fa parte della commissione che fa da consulente a Sarkozy. Sentiamo il giudizio su come si sarebbe potuto evitare questa crisi. Tutto quello che stiamo vivendo attualmente era prevedibile già 5 anni fa e non saremmo stati obbligati a prendere le decisioni che invece siamo stati forzati a prendere. Mi riferisco alla nazionalizzazione delle banche e nell'avere uno Stato estremamente potente. Quindi il ritardo accusato ha portato al fatto che l'intervento dello Stato sia stato necessario per far qualcosa che invece sarebbe stato possibile compiere in modo democratico e autonomo. Quindi il punto centrale è se sia possibile avere un governo democratico capace di agire nel lungo termine, di dare il diritto di voto alle generazioni future e capace di decidere non solo in funzione delle elezioni che l'attendono nel breve termine. Solo così si evita la dittatura. Altrimenti non la si potrà evitare, perché sarà necessario prendere d'urgenza delle decisioni impossibili da prendere in modo democratico. Beh, non è una bella prospettiva quella che ha ventilato Jacques Attali, non si applica chiaramente all'Europa, però insomma il fatto che governi sotto pressione con una crisi profonda che non hanno generato loro debbano prendere decisioni rapide e debbano farlo non necessariamente aspettando i tempi di tutti i passaggi democratici è un dato di fatto, comunque la si pensi. Leonardo Maesano, dopo il metodo, la pubblicità, vorrei capire a questo proposito come si muoverà Gordon Brown, perché insomma nazionalizzare le banche inglesi non è una cosa che si può decidere così dalla mattina alla sera, e quindi attraverso quali forme e formule potrebbe verificarsi. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Leonardo Maesano, al di là delle preoccupazioni di carattere anche politico di Jacques Attali, che dice attenzione, o le democrazie riescono a darsi uno strumento veloce, se no sarà inesorabile avere provvedimenti d'urgenza di carattere più o meno autoritario per risolvere una crisi, in Gran Bretagna come concretamente si potrebbe muovere questa nazionalizzazione di Gordon Brown delle banche? Secondo me innanzitutto va detto che non si può dire che Gordon Brown non abbia avuto fantasia e non sia stato attivo in questo periodo, perché si è sprecato in tutti i modi possibili, poi evidentemente non è bastato, perché quello che sta succedendo lo dimostra, però comunque non c'è stata inazione da parte del governo inglese. Ora, sulla questione delle nazionalizzazioni nessuno ne parla a livello ufficiale, viene preso in considerazione, però nessuno, come dire, la definisce dal punto di vista poi operativo. Quello che finora hanno sempre voluto fare è rimanere fuori dalla gestione delle banche e in Royal Bank of Scotland, anche se hanno il 70%, non hanno un ruolo operativo e quindi perché non considerano le nazionalizzazioni come dire come una scelta strategica. La nazionalizzazione diventa un'emergenza nazionale per rimettere in moto l'economia, quindi semplicemente una se ci sarà naturalmente, semplicemente come dire, un intervento ponte al più breve al più breve termine possibile per poter assicurare il ritorno della liquidità nel sistema, che poi sappiamo che nasce soprattutto dalla scarsa fiducia fra banche su quello che una ha all'interno dei suoi bilanci, cioè sui famosi asset tossici, da un lato, e dall'altro sul rischio di aprire adesso linee di credito in un momento di recessione, con il rischio quindi che non ritorni. Questo secondo punto però Gordon Brown ha voluto in tutti i modi garantirlo, cioè con queste forme di garanzia pubblica che tutelano la banca dal rischio di insolvenza dei clienti. Io credo che questo sia un problema in larga parte risolto. Resta invece il problema di fondo sull'esposizione delle banche, quella che hanno. No, tu hai fatto bene a precisare che il fatto che per esempio il 70% della Royal Bank of Scotland sia del governo non vuol dire che abbiano messo nel consiglio di amministrazione uomini del governo. Hanno, diciamo, comprato una quota, ma sterilizzata, si direbbe in altri casi, cioè solo per non farla fallire, non per sedersi nel consiglio di amministrazione, non per mettere i propri uomini, non si torna, diciamo, ai boiardi di Stato, come si chiamavano da noi, dentro anche le banche nel caso britannico. Però è innegabile che in Gran Bretagna, Leonardo, in questo momento la rete di protezione sia una rete totale sulle banche, ma stanno capitando anche altre cose. Oltre alla disoccupazione, che è la più alta da 10 anni a questa parte, quasi 10 anni a questa parte, oggi la notizia che a me ha fatto così un po' sorridere è che il miliardario russo, ex spia del KGB, Alexander Lebedev, si è comprato il Living Standard pagandolo una sterlina. Al di là del Living Standard, è in difficoltà tutto il mondo della grande distribuzione, Tesco, Marks & Spencer, e il mondo della pubblicità, cioè non è solo il problema bancario in sé. No, certo, il problema bancario lo acuisce, perché nel momento in cui queste realtà economiche non trovano o rischiano di non trovare finanziamenti, tutto si blocca. C'è da dire, come considerazione generale, perché va estesa dalle imprese soprattutto ai cittadini, che questo è sempre stato un paese che è abituato a vivere sull'orlo del precipizio dal punto di vista economico, cioè l'indebitamento medio di una famiglia inglese è un multiplo di quello che è di una famiglia italiana, e quindi i mutui venivano dati al 120% del valore dell'immobile, e ancora adesso ci sono banche che sono disposte a offrire a tassi notevoli il 90-95% di un valore che è un punto di domanda, perché quanto vale oggi una casa in Inghilterra? Ma poi il mutuo al 120% significa che qualunque persona poi il 100% lo usa per comprarsi casa, il 20% per comprarsi altro. Perché, insomma, rifare la casa. Rifare la casa, rifarsi la macchina, rifarsi la moglie, insomma, quello che deve fare. Vabbè, Renato Maisano, vedremo quello che succederà poi anche in Gran Bretagna. La situazione è molto molto difficile, e non solo in Gran Bretagna, però la Gran Bretagna è quella dove questo meccanismo si è inserito in un'economia tutta sbilanciata verso la parte finanziaria. Che cosa significhi stampare moneta o quantitative easing? Significa stampare moneta vuol dire creare inflazione, su questo ci sono pochi dubbi. La Banca d'Inghilterra, lo abbiamo detto, può farlo perché è rimasta indipendente, noi non possiamo perché c'è la Banca Centrale Europea. Grazie Leonardo Maisano, in collegamento con noi da Londra. Sentiamo che cosa prevede Merrill Lynch come opportunità di investimento nel mondo, ma soprattutto in Italia, per quello che riguarda il 2009. Bisogna considerare i problemi legati alla recessione globale e alla deflazione globale. Assisteremo a una caduta dei prezzi e le difficoltà delle aziende continueranno non soltanto quest'anno, ma per i prossimi 2 anni. Per quanto riguarda il vostro paese, sono d'accordo con le previsioni della Banca d'Italia. L'economia subirà una contrazione del 2% quest'anno e nel 2010 la crescita si attesterà attorno all'1%. I paesi emergenti avranno un inizio molto difficile. utile. Hanno visto per ora una flessione piuttosto grande data da una discesa delle importazioni da parte degli Stati Uniti, ad esempio sui prodotti cinesi, molto drammatica da ottobre a dicembre scorso, e le industrie cinesi e indiane hanno dimostrato una piccola reazione. Stiamo assistendo a una forte depressione della domanda e una mancanza di sicurezza. Dalla seconda metà di quest'anno crediamo che grazie alle politiche dei governi assisteremo ad una piccola ripresa, ma sarà molto debole nel 2009. Spero che il presidente Obama possa ridare un po' più di sicurezza al sistema economico. Nel suo programma esistono delle misure per lo sviluppo che potranno ridare un po' di sicurezza all'economia. Ma lui avrà a che fare con problemi piuttosto grandi. Spero che trovi una cura per l'economia americana. Credo che la gente dovrebbe acquistare obbligazioni, in particolare quelle di società con fondamentali solidi, che potranno avere risultati molto buoni. A mio avviso sarà possibile anche che il mercato azionario riprenderà a correre, grazie alla fiducia che potrà iniettare sui mercati il nuovo presidente Obama. President Obama stands up and announces his program, there may be an injection of confidence that leads to a rally in equities. Così l'analista, anzi il responsabile investimenti per l'Europa, l'Asia e l'Africa di Merrill Lynch, Gary Duggan, intervistato dal nostro Stefano Totoro. Massimo rispetto per Duggan e per tutti i responsabili investimenti. Faccio solo notare che lavora per una banca che si è beccata 40 miliardi di dollari tra perdite e svalutazioni, che è fallita, se l'è comprata la Bank of America per 50 miliardi, ma in realtà se l'è comprata il governo americano, che ha girato la Bank of America 20 miliardi per fargliela comprare. No, questo per dire che se anche Merrill Lynch, seguendo il consiglio del suo responsabile investimenti Europa, Asia e Africa, avesse comprato un po' più di obbligazioni e un po' meno di credit default swaps o prodotti strutturati o mutui subprime, forse, diciamo, sarebbe ancora in vita. Ma nessuno è profeta in patria. Molto citato Obama nell'intervento dell'analista, dell'economista di Merrill Lynch. E allora, dopo le informazioni per chi è in viaggio, parleremo di borse, ma parleremo anche di alcuni tratti del piano economico di Obama, fermo restando che ancora tutto definito non è. Come hanno chiuso le borse? Meno 1,90% S&P MIB, meno 1,80% MIBTEL, Milano la peggiore. Tra l'altro, mentre parlavamo di Gran Bretagna, la sterlina è affondata sia nei confronti dello yen, che nei confronti del dollaro, che nei confronti dell'euro. La sterlina sull'euro adesso è a 94, sullo yen ha toccato 122, sul dollaro 1,37. È molto debole però anche l'euro, in questo momento è sceso a quota 1,28 nei confronti del dollaro americano. Il fatto che noi siamo nel bel mezzo di una crisi adesso è ben noto. La nostra nazione è in guerra contro una vasta rete di violenza e odio. La nostra economia è pesantemente indebolita in conseguenza di cupidigia e irresponsabilità da parte di alcuni, ma anche del nostro fallimento collettivo di fare scelte difficili preparando la nazione per una nuova era. Si sono perse case, posti di lavoro, attività sono state chiuse, la sanità è troppo costosa, le nostre scuole non sono state all'altezza e ogni giorno porta altre prove che il modo in cui utilizziamo l'energia rafforza i nostri avversari e minaccia il nostro pianeta. Beh, l'avrete riconosciuto, Obama ieri, dopo il giuramento, un passaggio che ci è sembrato molto importante più che sui contenuti concreti, sulle linee guida, perché dopo aver ricordato che l'ingordigia di molti, l'ingordigia e la irresponsabilità di alcuni ha generato questa crisi, poi Obama ha anche allargato la responsabilità a tutto il sistema americano, non si è limitato a dire bisogna, diciamo, utilizzare alcuni soggetti come capro espiatorio, e lì l'energia, e quindi molto chiaro il fatto che la dipendenza americana nei confronti del petrolio arabo piuttosto che venezuelano deve ridursi, e il tema della sanità, della formazione e chiaramente anche dei controlli sul mercato finanziario. L'entusiasmo di ieri degli oltre 2 milioni di americani presenti a Capitol Hill non ha contagiato le borse, ieri hanno chiuso tutto in negativo, adesso l'America è positiva di uno 0,7%, ma al di là del dato sulle borse, sentiamo in questa scheda fino ad ora quali, per quello che si è capito, quali saranno i piani e i fronti di intervento di Barack Obama in tema di economia. We are in the worst financial crisis since the Great Depression. Così l'allora senatore dell'Illinois, Barack Obama, in campagna elettorale fotografava la situazione economica degli Stati Uniti. Ora, da neopresidente, si trova a guidare un paese che solo nel 2008 ha perso oltre 2 milioni di posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione al 7,2%, record degli ultimi 16 anni. E proprio l'occupazione è al centro del programma economico del neopresidente. One word that's on everybody's mind. J-O-B-S, jobs. L'obiettivo si chiama 4 milioni di posti di lavoro nel giro di 2 anni, sia nel settore privato che nel settore pubblico, e quindi insegnanti, poliziotti e vigili del fuoco. E alla middle class, la classe media, Obama si era rivolto espressamente nel corso della campagna elettorale. You need somebody working for you, and you've got to have somebody in Washington who's thinking about the middle class. Obiettivi contenuti nel piano di rilancio del paese da 825 miliardi di dollari. Previsti innanzitutto 275 miliardi di dollari per 2 anni di sgravi fiscali per cittadini e imprese, un taglio delle tasse per $1,000 per il 95% delle famiglie, mentre le imprese potranno decurtare le perdite subite nel 2008 dai profitti guadagnati negli ultimi 5 anni, anziché nei 2 anni previsti dalla normativa vigente. Previsto inoltre un massiccio piano di investimenti in infrastrutture da 90 miliardi di dollari, di cui 2/3 destinati a costruire o rinnovare autostrade, ponti ed edifici pubblici. Altri 117 miliardi vanno all'istruzione, mentre 54 miliardi di dollari sono destinati a rendere il paese più verde e meno dipendente dal petrolio. E un paese più verde passa dallo sviluppo di auto ecologiche. È questa la grande sfida che l'industria dell'auto statunitense dovrà cogliere, anche perché ad essa è legata alla concessione dei fondi governativi, vitali per arginare la grave crisi che attanaglia le 4 ruote a stelle e strisce. Quindi classe media, occupazione, ma come priorità è arrivata un'agenzia pochi minuti fa e di nuovo la priorità si chiama Piano Salva Banche. Perché da quello che si è capito l'amministrazione Obama sembra orientata a muoversi rapidamente per stabilizzare il mercato finanziario, di nuovo metterà soldi nelle banche, acquisterà prodotti tossici e anche altre strade, l'acquisto di titoli convertibili dalle istituzioni finanziarie e con il governo che di fatto entra, come è successo in Gran Bretagna, il modello Gordon Brown, compri dei titoli privilegiati e lo Stato entra, anche se non esercita, diciamo, un ruolo di controllo, ma entra come azionista delle banche. E il segretario del tesoro americano Timothy Geithner, che era il capo della Bank della Federal Reserve di New York, ha detto che il piano di rilancio economico arriverà in poche settimane. E alcuni di voi scrivono: la vanità è stato il più grande prodotto tossico immerso in questi anni. No, a mio avviso è stata la avidità, l'ingordigia, the greeting attitude, come dicono gli inglesi, è proprio quella che ha fregato anche manager che fino a quel momento si vantavano di essere dei semidei, i dei dell'universo, lo citiamo ogni tanto Tom Wolfe. Passiamo alle giornate molto più prosaiche di borsa: meno 1,90% S&P MIB, meno 1,80% MIBTEL. Meglio ha fatto Parigi, meno 0,6, e Londra, meno 0,7, decisamente meglio Francoforte, più 0,5, e l'America, più 1%. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Come mai Milano perde 1,5% più di tutte le borse europee? Guarda, perché sono andati male alcuni titoli a larga capitalizzazione, in primis quelli delle banche, che hanno appunto una presenza più forte in Italia rispetto alle altre borse europee, fatta eccezione comunque di BPM e Banco Popolare. E poi sono andati male comunque pesi massimi del calibro di Eni, meno 2,9%, l'Ottomatica che ha perso il 6,8%, Mediaset il 5,4%. Beh, lì c'è il dato sulla raccolta pubblicitaria nel 2008 che ha pesato, lo leggevamo prima, meno 2% settore. in particolar modo la stampa quotidiana e periodica. Ma sulle banche invece, com'è stata la situazione in Europa, al di là di Barclays del meno 30% che si è beccata? Ma in Europa, perché in Italia era un po' più mista oggi, il Banco Popolare ha guadagnato il 4,1%, la Popolare di Milano ha guadagnato il 3,7%, UbiBanca ha chiuso invariata, invece ha sofferto e non poco Intesa, meno 5,2%, il Monte dei Paschi meno 3,5%, e in flessione anche Unipol meno 2,3%, Alleanza meno 2,1%, Generali meno 1,80%. Più tranquilla oggi Unicredito, che vale 1,34 euro, però e ha perso lo 0,60%. Esatto, per quanto riguarda il resto d'Europa, in Germania si può dire che i titoli degli istituti di credito hanno tentato il rimbalzo, mentre a Londra, come hai detto tu, spicca appunto il ribasso di quasi il 30% di Barclays. A Parigi è stata una seduta a doppia faccia, infatti BNP Paribas nella prima parte della seduta era venduta a piene mani, i titoli sono arrivati a perdere quasi il 10% sulla notizia che l'istituto sta esaminando con interesse la proposta dello Stato di un'iniezione da 2,55 miliardi di euro e per BNP Paribas sarebbe la seconda volta che appunto la banca si trova a accettare, diciamo, fondi pubblici. Sì. E poi però appunto sul finale i titoli, pur chiedendo in terreno negativo, si sono assolutamente ripresi. E questo per quello che riguarda i titoli bancari. Altre attività, altri settori oggi. Dunque, abbiamo visto andare bene Prysmian più 3,9%, Fondiaria più 4,7%. Magari se ci concentriamo su Fondiaria e Prysmian. Sì, per quanto riguarda appunto Prysmian, sono sempre le notizie provenienti dall'America a riaccendere i riflettori sulla società, visto che è probabile, deve essere ovviamente ancora. Sì. Votato, ma il piano cosiddetto Obama preveda fondi per le aziende che sono attive nel business della trasmissione di energia e Prysmian proprio negli Stati Uniti è leader nel settore e quindi questo ha dato in là una serie di acquisti che ormai si vedono da diverse sedute, da quando sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sul piano Obama. Per quanto riguarda invece Fonsai, si può dire che c'è stato un po' di attenzione sulla società, visto che c'è anche un articolo in cui l'amministratore delegato sul Sole 24 Ore di oggi, in cui l'amministratore delegato del gruppo Marchionni dice che fa un po' il quadro nel settore assicurativo, prevedendo una riduzione del 10% circa per la compagnia per i prezzi RC Auto. Cioè, tra l'altro, tra i titoli, giustamente alcuni di voi segnalano Tiscali. Tiscali, l'abbiamo ricordato, ha annunciato 250 esuberi, deve fare risparmi per 40 milioni di euro. Il mercato ha reagito male, però, dico però perché ogni tanto cinicamente le borse, quando sentono l'odore di esuberi, premiano il titolo perché immaginano i risparmi. In una battuta, Eleonora Micheli, come mai meno 8,60 Tiscali? Ma in questo caso appunto il mercato ha acceso l'attenzione soprattutto sul fatto che la società è in evidente difficoltà, nonostante peraltro l'azienda abbia ribadito quelle che sono le proprie previsioni sui margini e soprattutto anche abbia ribadito che sono in corso le trattative per la cessione degli asset inglesi. D'altra parte il mercato teme che anche questa cessione in verità in questo momento risulti difficile. Chi se la compra in Inghilterra in questo momento? Sì, chi ha i soldi in Inghilterra? Questa è la domanda che si fa al mercato, hai ragione a ricordarlo. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare dell'altro tema di questa giornata economico-finanziaria, il dibattito sul federalismo fiscale. A chi si fosse appena messo in collegamento, ricordiamo la debolezza oggi della sterlina britannica su tutti i mercati, complice un nuovo aggravarsi della crisi in Gran Bretagna, Barclays ha perso più del 30% in borsa, il governo britannico sta pensando ulteriori ingressi nelle banche, la disoccupazione in Gran Bretagna ha toccato il livello più alto come numero di disoccupati, o meglio di persone che ricevono il sussidio di disoccupazione, il livello più alto dal 2000. Le borse male, l'Italia meno 1,90%, con i titoli legati alla pubblicità in flessione come conseguenza di un dato che ha segnato un meno 2% negli investimenti pubblicitari nei primi 11 mesi del 2008. Petrolio a quota 41,58 in questo momento, l'Euribor è calato ulteriormente, ossia il tasso interbancario è calato al 2,31%, cioè ai minimi dal 9 novembre 2005, l'Euribor a 3 mesi, ed è il costo che ha per le banche prestarsi denaro. E però, visto che sono arrivati molti messaggi su un tema che abbiamo lanciato all'inizio del programma, risentiamo che cosa ha detto oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, criticando le banche europee, perché dice, insomma, a noi risulta, e devo dire che anche a noi risulta, che i tassi praticati dalle banche alla clientela, imprese o privati cittadini, non siano scesi tanto quanto sono scesi i tassi di interesse, ossia tanto quanto ha tagliato la BCE i tassi di interesse. Sentiamo Trichet. We are looking very very carefully to the Euribor in particular. Stiamo osservando molto attentamente l'andamento dell'Euribor e il fatto che ci sia stata una corrispondenza tra le nostre decisioni di politica monetaria e i tassi effettivamente applicati sul mercato. Da questo punto di vista devo dire che abbiamo monitorato nelle ultime settimane l'Euribor a 3 mesi e posso affermare che si sta andando nella giusta direzione. Abbiamo visto un progressivo calo dell'Euribor ad un livello vicino al tasso di interesse da noi appena deciso. Ma se da un lato vedo segnali di miglioramento, occorre rimanere molto vigili, perché per un certo numero di ragioni notiamo delle esitazioni tra le banche stesse. Invitiamo dunque le banche a tradurre effettivamente i ribassi dei tassi che noi decidiamo. In questo ambito non tutto è stato fatto, ma ripeto, per ciò che riguarda l'Euribor stiamo monitorando molto attentamente. Sono stati compiuti molti progressi che spero continueranno. E sempre in tema di banche, oggi BNP Paribas, che alla fine ha chiuso in leggero aumento, ha avuto una giornata difficile il gruppo bancario francese in borsa, però ha detto di essere interessata a un nuovo aiuto dello Stato francese, un nuovo sostegno da parte dello Stato francese per 2 miliardi e 550 milioni di euro. Lo ha detto ufficialmente in un comunicato. Questo significherà anche che restano le difficoltà dentro BNP Paribas. E le banche francesi tutte si sono impegnate a finanziare contratti all'export francese per 7 miliardi di euro, cioè finanzieranno, aiuteranno le imprese per le esportazioni, a patto che possano ricevere un nuovo prestito dal governo di 10 miliardi e mezzo di euro destinato a rafforzare la capitalizzazione. E restando in tema di export, brutto oggi il dato sull'export italiano a novembre, meno 13,3%, è il dato peggiore come flessione dal 1991, e questo è alquanto preoccupante. Sono calate, lo ricordavamo, anche le importazioni, meno 10,7%, è il livello più basso, il calo più forte, mettiamola così, nelle importazioni dal 1996. Il saldo, la differenza tra export e import, resta però negativa per 1 miliardo di euro, perché le esportazioni nostre sono calate più delle importazioni. Il dato è particolarmente negativo sul fronte europeo, cioè l'export verso i paesi europei è crollato del 16% rispetto a un anno prima. Anche le importazioni sono crollate di un 16%. Nel caso specifico, molto male il nostro export in Gran Bretagna, ed è immaginabile con le difficoltà economiche che attraversa il Regno Unito, meno 20%, meno 27% in Spagna, le nostre esportazioni, meno 15% in Francia, meno 11% in Germania, male anche in Russia, meno 20%, tengono invece in Cina e in Giappone, in flessione ma non così forte negli Stati Uniti, meno 7,5%. E purtroppo tutti i settori del Made in Italy hanno sofferto, oltre alle quattro ruote, meno 25%, male anche le calzature, meno 7%, il tessile meno 13%, i mobili meno 11,5%, e l'esportazione della meccanica meno 8,5%. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi il dibattito sul federalismo fiscale, visto che oggi il ministro dell'economia Giulio Tremonti è intervenuto al Senato per rispondere ad alcune domande dell'opposizione. Le domande vertevano tutte sull'impatto economico, finanziario della riforma che dovrebbe portare al federalismo fiscale. Ci risentiamo tra un minuto. 349-238-6666 per i vostri sms. Strade in diretta. Si sono formate code per un mezzo fermo in panne sull'autostrada del Sole tra Sasso Marconi e Bologna Casalecchio verso Milano. Ricordiamo poi sempre in autosole provenendo da Bologna l'innesto con la 21 Torino Piacenza Brescia, cioè un mezzo pesante adagiato in prossimità del New Jersey, rallentamenti proprio in prossimità dello svincolo. Notizie di traffico intenso intorno alle principali città. Attenzione a Milano sulla tangenziale ovest, ci sono code tra Cusago e l'innesto con la 7 Milano-Genova verso l'autostrada del Sole, anche per un incidente che è stato però risolto. Code sulla Roma-Fiumicino tra il grande raccordo anulare Fiumicino verso quest'ultimo, anche in questo caso dopo un incidente tra tre auto è momentaneamente chiusa la corsia di sorpasso per lavori necessari proprio a causa di questo incidente. Sulla 12 Genova-Livorno difficoltà in entrata Genova-Est verso Livorno per un incidente, ci sono code, rallentamenti invece per un cantiere sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Est e Soave verso Padova. Un po' di notizie anche di visibilità ridotta, c'è la nebbia in particolare sull'autosole nel tratto appenninico tra Pian del Voglio e Rioveggio, in Abruzzo sulla 24 Roma L'Aquila Teramo all'altezza dell'Aquila e poi lungo la 14 Adriatica tra gli svincoli di Vasto. Quindi massima prudenza alla guida, noi ci risentiamo alle 18:45. Focus Economia. Allora, si diceva del dibattito al Senato, devo dare una risposta però agli ascoltatori, perché è vero che se la Banca Centrale Europea ha criticato le banche europee perché dice che i tassi non si abbassano tanto quanto si abbassano i tassi ufficiali, l'ABI oggi, l'Associazione Banche Italiane, ha detto che nel mese di dicembre i tassi sui mutui sono scesi al 5,08%, quindi come nel gennaio del 2007, e quelli per le imprese sono calati al 4,7%, ossia ai livelli dell'aprile 2007. Faccio notare che comunque i livelli dei tassi di interesse ufficiali sono ben più bassi e faccio notare che l'Euribor, da quello che noi vediamo, è sceso ben di più rispetto ai tassi segnalati dalla situazione delle banche italiane, anche perché insomma l'Euribor è arrivato a livelli del 2005, mentre lo dice l'ABI, i mutui praticati, i tassi praticati a imprese e cittadini sono ancora a livello 2007, insomma mancano due anni all'appello. Va bene andare indietro, ma insomma andiamo tutti quanti indietro nello stesso modo. La riforma federale, i costi di questa riforma. Ne abbiamo parlato altre volte, la riforma del federalismo fiscale si regge sul pilastro, da un lato che le regioni, comunque gli enti locali si faranno direttamente carico, le regioni di sanità, servizi sociali e istruzione avranno anche possibilità di effettuare una loro autonomia fiscale, quindi IRAP, IRPEF ed IVA. Per esempio i fondi per la sanità e i servizi sociali e l'istruzione arriveranno dalle tasse locali e dal cosiddetto fondo perequativo, altro pilastro di questa riforma, cioè il fondo che dovrebbe evitare che, visto che il sud, tra il sud e il nord del paese le differenze sono molto forti anche in termini di gettito fiscale, che ci sia troppa sperequazione, troppa diversità, dovrebbe andare a colmare, a livellare le esigenze finanziarie delle regioni quando non vengano tutte soddisfatte dalla raccolta fiscale. Altra categoria importante è la spesa standard, ossia per esempio per il servizio sanitario si calcolerà quello che è il costo standard di un servizio prendendo a riferimento le regioni più efficienti. E il fondo perequativo interverrà perché se la regione non ce la fa da sola con il fisco ad arrivare a quel costo standard, il fondo perequativo gli dà la differenza, non è che gli dà tutto in più, ma solo la differenza. E ricordiamo anche che al di là di come la si pensi da un punto di vista, diciamo, politico, insomma, qualcosa non sta funzionando. Ci sono 5 regioni fiori l'occhiello nella spesa sanitaria, ci sono 3 regioni che da sole rappresentano il 70% del disavanzo della spesa sanitaria, ossia Sicilia, Campania e Lazio, e ci sono casi stranissimi. Un bambino all'asilo costa al comune di Modena 7.000 euro, ne costa 16.000 al comune di Roma. Ora io non so che tipo di asili abbia Roma, insomma, immagino siano più o meno simili a quelli di Modena. Il plasma, una sacca di sangue, costa a costo di 1 in molte regioni del nord, costa 4 volte di più in Calabria, e non penso che il sangue subisca così l'influsso climatico e geografico. E sempre per il caso, per fare degli esempi, in Calabria gli abitanti si fanno il doppio di esami TAC rispetto alla Lombardia. Anche qui non penso vi sia, diciamo, una predisposizione, mi auguro di no, calabrese. Temo che invece dietro le TAC ci sia tutto un giro di compensazioni agli ospedali privati, alle cliniche e quant'altro. E tra l'altro il 60% dei calabresi che fanno la TAC le fanno fuori dalla loro regione, per cui nemmeno, diciamo, utilizzando il servizio sanitario regionale, che già costa più rispetto alla Lombardia. E poi quanto ricevono i cittadini, anche qui senza voler dare giudizi politici, un cittadino lombardo versa in tasse 4.000 euro in più di quanto riceve, ossia versa in media 17.000 euro e riceve servizi per 13.000 euro. Un cittadino siciliano versa 7.900 euro, riceve servizi per 10.600 euro. Questo per dire che, insomma, qualcosa va modificato nei costi delle regioni, anche perché sennò poi salta il patto di stabilità interno. Sentiamo che cosa ha dichiarato il ministro Giulio Tremonti, ministro dell'economia, sui costi del federalismo fiscale. Ha detto ancora presto per stabilire l'impatto. Credo che sia davvero difficile, per limiti di sistema, formulare da subito una risposta che non sia procedurale, che non sia politica. Noi sappiamo bene che il fondamento della democrazia è no taxation without representation. Il fondamento della democrazia non è il debito pubblico, il fondamento della democrazia è la responsabilità fiscale e la rappresentanza fiscale. Ed è in questi termini che noi, materia costituzionale, pensiamo fondamentale discuterla qui con l'opposizione e attuarla con l'opposizione. Allora sentiamola l'opposizione nella persona del capogruppo del PD al Senato, Anna Finocchiaro, che ha commentato l'intervento del ministro Tremonti in aula al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. Quanto costa il federalismo fiscale, cioè quanto costerà ai cittadini, ai contribuenti? Quale effetto, quale impatto economico e finanziario aveva sulle realtà locali, sui comuni, sulle province e anche sulle regioni? Il ministro Tremonti ci ha detto: non è possibile saperlo, lo saprete di volta in volta perché sarà prestata copertura ai singoli decreti legislativi. Allora, noi abbiamo un elemento di vivissima preoccupazione perché non si riesce a capire quale sarà l'impatto economico e finanziario di questo provvedimento sul Paese e perché non si riesce a capire quale sarà il ruolo del Parlamento nella definizione del contenuto dei singoli decreti legislativi. Dunque, professor Massimo Bordignon, uno dei massimi studiosi di federalismo fiscale in Italia, buonasera. Bordignon, mi sente? Non mi sente evidentemente. Io la sento, eccoci. Lei mi sente? Sì, adesso la sentiamo bene. Dicevo, uno dei massimi studiosi di federalismo fiscale in Italia, insegna scienze delle finanze alla Cattolica di Milano, scrive spesso di federalismo anche sulle colonne del Sole 24 Ore. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti qualche mese fa, quali elementi in più abbiamo in questo processo verso il federalismo fiscale per capire poi concretamente chi sarà il soggetto principale per la riscossione dei tributi, chi avrà la maggiore autonomia legislativa? Prego. Senta, per darle una risposta rapida, c'è stato qualche progresso nel senso dei principi e delle procedure, ma siamo sempre ai principi e alle procedure, cioè un numero che sia un numero, ho sentito un attimo fa Tremonti, non è venuto fuori. È chiaro che il provvedimento è molto complicato, per cui avanzare numeri, stime, simulazioni potrebbe essere soltanto abbastanza generico, ma insomma qualche numero deve anche aiutare la discussione. qui c'è probabilmente la voglia, la necessità da parte del ministro di tenersi un attimo le mani libere. Posso anche capirlo, ma certo questo non rende facile la discussione o anche il dibattito, non solo nel Parlamento ma nel Paese. Sì, è chiaro che il ministro deve in primo luogo pensare alla tenuta dei conti pubblici, al debito, al deficit, con gettito fiscale in calo, economia in recessione. Oggettivamente non è l'anno migliore, diciamo, per parlare di spese future, però è chiaro che l'iter parlamentare è in corso e il tema è politico più che economico in primo luogo, vista la posizione della Lega su questo. Però vorrei capire che cos'è che manca di più all'appello. Non vogliamo tutta la lista della spesa, però che cos'è che a lei, da studioso del federalismo, manca per capire quale sarà poi, diciamo, l'impianto complessivo, al di là degli elementi già noti? Beh, dunque, l'impianto complessivo resta sostanzialmente non modificato. Allora, lo possiamo riassumere per i suoi ascoltatori in due battute. Praticamente si razionalizza l'esistenza, ci cerca di dare un po' più di autonomia a livello locale, si distinguono le funzioni degli enti locali dalle regioni e comuni in funzioni fondamentali in cui si garantisce una perequazione totale delle risorse, sia pure al costo standard, le altre in cui si fa una perequazione di carattere più leggera. Diciamo così, questo è più o meno il modello. Quello che non è ancora chiaro è, per esempio, quali siano le funzioni fondamentali dei comuni o delle regioni e quali invece siano quelle soggette a capacità fiscale. Il testo shifta, si muove continuamente tra diverse definizioni. Sappiamo, per esempio, la sanità sicuramente sarà tra quelle essenziali, non sappiamo bene qual è il ruolo dell'istruzione, se resterà nelle mani dello Stato o arriverà alle regioni. Quindi è chiaro che quando parlo di istruzione parlo del finanziamento, per esempio, degli stipendi degli insegnanti. Certo. Uno non sa questo, fa anche difficoltà a fare un po' di conto. Ecco, la domanda che più spesso ci arriva, per concludere, è: ma insomma, il fondo perequativo garantirà che lo stesso servizio, poniamo la sacca di sangue che costa 100, se una regione non riesce ad avere abbastanza soldi dal fisco, dai cittadini, e arriva 80, il fondo perequativo ti paga gli altri 20, non ti paga il fatto che magari in Calabria costi 400 e in Lombardia 100, ti paga il costo standard. Secondo lei sarà possibile, diciamo, avere un federalismo fiscale senza danneggiare le regioni più povere e aumentare la spesa pubblica nel frattempo? No, dunque c'è una forte spinta all'efficienza, su questo non c'è dubbio. All'interno di tutto il provvedimento ci sono anche meccanismi di punizione, di sanzione per quelli che sfondano i patti di stabilità perché non raggiungono gli obiettivi, eccetera. Quindi c'è una retorica molto forte in quella direzione, da cui io spero bene, cioè spero che sia possibile. Bisogna mantenere certi livelli di perequazione, ma si riesca a aumentare e migliorare l'efficienza della spesa, soprattutto in una serie di regioni dove sono presenti quei casi che lei accennava nell'introduzione al dibattito. Poi bisogna vedere se queste cose vengono trasformate in comportamenti concreti, chiaro, su cui è bene sempre mantenere un minimo di, come dire, di distanza di prima di vedere i decreti legislativi. Sì, però insomma, è possibile tenere assieme più soldi per il nord in base a quanto uno versa, senza danneggiare i servizi al sud, se si migliora, così la capisco io, l'efficienza e quindi gli sprechi e i costi. Grazie Massimo Bordignon. Una nota prima di chiudere a chi ci scrive: ma non potete mica pretendere che le banche pratichino gli stessi tassi dell'Euribor. Nessuno lo pretende, ci mancherebbe, però se l'Euribor, il tasso interbancario a tre mesi, o se quanto costa alle banche prestarsi soldi, è sceso al 2,31%, questo è il valore assoluto, ma è sceso, diciamo, storicamente ai livelli del novembre 2005, se capisco bene dovrebbero scendere anche i mutui e i prestiti alle imprese ai livelli del novembre 2005, non allo stesso livello, ma a quei livelli. Io la capisco così, evidentemente non ci capisco molto e questa sera mi metterò a studiare, perché i tassi praticati dalle banche alle imprese e ai cittadini, lo dice oggi l'ABI, sono invece ai livelli del gennaio 2007. A casa mia mancano 2 anni all'appello, ma avrò modo questa sera per documentarmi. Buona serata a tutti voi da Sebastiano Barisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.